Bibbia Martini, primo libro dei Re 22 Il Re Achab, e Josafat ingannati dalle predizioni dei falsi profeti vanno a combattere contro i Siri a Ramoth di Galad, e son vinti, e vi muore Achab, il quale aveva fatto cacciare in prigione Michea, che gli prediceva la verità. All'empio Achab succede l'empio figliuolo Cozia. E al pio Josafat succede l'empio figliuolo Joram. 3 anni adunque passarono senza guerra tra la Siria e Israele. Ma il terzo anno Josafat re di Giuda andò a trovare il re di Israele. Or il re di Israele aveva detto a suoi servi, «Non sapete voi, che Ramoth di Galad è nostra, e noi trascuriamo di levarla di mano al re di Siria?» Egli perciò disse a Josafat, «Sarai tu con me a portar la guerra a Ramoth di Galad?» E Josafat disse al re di Israele, «Quel, che son io, lo sei tu, il popol mio, e il popol tuo sono una stessa cosa, e i miei soldati a cavallo son tuoi». E soggiunse Josafat al re di Israele, «Consulta, ti prego, oggi il Signore». Raunò pertanto il re di Israele i profeti in numero di circa 400, e disse loro, «Debbi io andare a far guerra a Ramoth di Galad, o starmene tranquillo?» E quelli risposero, «Va, che il Signore darà nelle mani del re». Ma Josafat disse, «Non vuoi egli qui nessun profeta del Signore, a fine di consultare per mezzo di esso?» E disse il re di Israele a Josafat, «E rimase un uomo, per mezzo di cui possiamo interrogare il Signore, ma io l'ho in avversione, perché non mi predice nulla di buono, ma sì del male, egli è Michea figliuolo di Gemla». Rispose a lui Josafat, «Non parlar così, o re». Il re di Israele pertanto chiamò un eunuco, e dissegli, «Va presto, e conduci Michea figliuolo di Gemla». Or il re di Israele e Josafat re di Giuda sedevano ciascuno sul loro trono vestiti alla reale, nella piazza vicina alla porta di Samaria, e tutti i profeti profetavano dinanzi ad essi. Oltre a ciò Sedecia figliuolo di Canaana si fece dei corni di ferro, e disse, «Queste cose dice il Signore, con questi tu metterai in scompiglio la Siria, sino che l'abbi distrutta». E tutti i profeti allo stesso modo profetavano, dicendo, «Va a Ramoth di Galad, va felicemente, e il Signore darà nelle mani del re». Or il messo, che era andato a chiamare Michea, parlò a lui, e disse, «Sappi, che i profeti tutti d'accordo con le loro parole annunziano felicità al re, sia dunque il tuo parlare simile a loro, e predici buoni successi». E Michea disse a lui, «Viva il Signore! Qualunque cosa mi dirà il Signore, quella io ridirò». Giunse pertanto dinanzi al re, e il re gli disse, «Michea, dobbiamo noi andare a portar la guerra contro Ramoth di Galad, ovvero restar tranquilli?» E quegli rispose a lui, «Va pure, va felicemente, e il Signore darà in potere del re». E il re gli disse, «Ti scongiuro una, e due volte nel nome del Signore, che tu non mi dica se non la verità». E quegli disse, «Ho veduto tutto Israele disperso per le montagne, come tante pecore senza pastore, e il Signore ha detto, costoro non hanno un Signore, se ne torni ciascuno in pace a casa sua». E il re di Israele disse a Josafat, «Non te l'ho io detto, che egli non mi profetizza del bene, ma sempre del male». E quegli soggiunse, e disse, «Per questo ascolta la parola del Signore, io ho veduto il Signore, che sedeva sopra il suo trono, e tutta la milizia celeste, che gli stava attorno da destra, e di sinistra, e il Signore disse, chi ingannerà Achab re di Israele, affinché vada, e perisca a Ramoth di Galad?» E uno disse una cosa, e l'altro un'altra. Ma uno spirito andò, e si presentò dinanzi al Signore, e disse, «Io lo ingannerò». E il Signore disse a costui, «E come?» E quegli disse, «Io anderò, e sarò spirito di menzogna nelle bocche di tutti i profeti di lui. E il Signore disse, lo ingannerai, e avrai il tuo intento, va, e fa così. Ora pertanto vedi, come il Signore ha posto lo spirito di menzogna in bocca di tutti i tuoi profeti, che son qui, e il Signore ha pronunziate sciagure contro di te. Allor Sedecia figliuolo di Canaana si accostò, e diede uno schiaffo a Michea, e disse, Mia dunque ha abbandonato lo spirito del Signore, e a te ha parlato? E Michea disse, Te ne accorgerai in quel giorno, quando entrerai da una in un'altra camera, per nasconderti. E disse il re di Israele, Prendete Michea, ed egli stia sotto la custodia di Amon principe della città, e di Joas figliuolo di Amalek, e dite loro, Queste cose dice il re, mettete quest'uomo in prigione, e alimentatelo con pane di tribolazione, e con acqua di afflizione, persino a tanto ch'io torni con la vittoria. E Michea disse, Se tu tornerai con la vittoria, il Signore non avrà parlato per bocca mia. E soggiunse, Popoli tutti, poneteci mente. Si mosse adunque il re di Israele, e Giosafat re di Giuda contro Ramot di Galad. Disse adunque il re di Israele a Giosafat, Prendi le tue armi, ed entra in battaglia vestito delle tue vesti. Ma il re di Israele cambiò di vestito, ed entrò nella mischia. Ora il re di Siria aveva detto a 32 capitani dei suoi cocchi, Voi non combatterete contro veruno o piccolo, o grande, ma contro il solo re di Israele. Quindi i capitani dei cocchi, avendo veduto Giosafat, si pensarono, che i fosse il re di Israele, e si scagliarono contro di lui per combatterlo, e Giosafat diede uno strido. E i capitani dei cocchi riconobbero che egli non era il re di Israele, e lo lasciarono stare. Ma un uomo avendo teso il suo arco, scoccò a caso la freccia, e portò l'accidente, che egli ferì il re di Israele tra il polmone, e lo stomaco, onde egli disse al suo cocchiere, Volgi indietro, e menami fuor dell'esercito, peroché io sono ferito gravemente. Si combatté adunque in quel giorno, e il re di Israele se ne stava sul suo cocchio volto in verso dei Siri, e morì sulla sera, scorrendo il sangue dalla piaga nella pedana del cocchio. E prima che il sol tramontasse, un araldo suonò la tromba per tutto l'esercito, avvisando che ciascuno se ne tornasse alla sua città e alla sua terra. Ora il re si morì, e fu portato a Samaria, e fu sepolto in Samaria. E lavarono il suo cocchio, e lavaron le redini alla peschiera di Samaria, e i cani leccarono il suo sangue, secondo la parola detta dal Signore. Il resto poi delle azioni di Acab, e tutto quello che egli operò, e la casa di avorio che i fabbricò, e tutte le città che i fondò, tutte queste cose non sono elleno scritte nel diario dei re di Israele. Acab pertanto si addormentò con padri suoi, e Ocozia suo figliuolo gli succedette nel regno. E Giosafat figliuole di Asa aveva cominciato a regnare sopra Giuda l'anno quarto di Acab re a Israele. Egli aveva 35 anni allor che cominciò a regnare, e regnò 25 anni a Gerusalemme, sua madre chiamavasi Azuba figliuola di Salai. Ed egli batté in tutto le vie di Asa suo padre, né mai torse da queste, e fece quello che era giusto dinanzi al Signore. Egli però non tolse via i luoghi eccelsi, peroché il popolo sacrificava tuttora, e bruciava incenso nei luoghi eccelsi. E Giosafat stette in pace col re di Israele. Il resto poi delle azioni di Giosafat, e le opere fatte da lui, e le sue battaglie, non sono elleno scritte nel diario dei fatti dei re di Giuda? Egli di più levò dal paese gli avanzi degli uomini effeminati, che eran rimasi a tempo di Asa suo padre. E allora non era stabilito re in Edom. E il re Giosafat aveva fatta un'armata navale, per farla navigare ad Ofir per loro, ma non poterono fare il viaggio, perché andarono in pezzi in Asiongaber. Allora Ocozia figliuolo di Achab disse a Josafat, va dalla mia gente con la tua sulle navi. Ma Josafat non volle. E Josafat si addormentò con padri suoi, e fu sepolto con essi nella città di Davide suo padre, e Joram suo figliuolo gli succedette nel regno. E Ocozia figliuolo di Achab aveva principiato a regnare sopra Israele in Samaria, l'anno 17° di Josafat re di Giuda, e regnò sopra Israele per 2 anni. Ed egli fece il male nel cospetto del Signore, e seguì le tracce di suo padre, e di sua madre, e le tracce di Geroboam figliuolo di Nabat, il quale indusse Israele a peccare, e gli servì anche a Baal, e lo adorò, e provocò a sdegno il Signore Dio di Israele, facendo tutte quelle cose che aveva fatte il padre suo. Note 22,2. Josafat andò a trovare Achab. Josafat aveva fatto sposare Atalia figlia di Achab al suo figliuolo Joram. La parentela e l'amicizia contratta da Josafat con Achab dispiacque a Dio, e Josafat ne fu ripreso e punito. Ottimamente l'Apostolo, 2 Cor 6. 14. Non vogliate mettervi a uno stesso giogo cogol infedeli. 22,5. Quel che son io lo sei tu. Una stessa cosa siamo noi due uniti in perfetta amistà. 22,6. I profeti in numero di circa 400. Si crede che fossero quei 400 profeti dei boschetti che non andarono al Carmelo. Vedi 3. Regioni 18, 19. 22,22,8. Michea figliuolo di Gemla. Questo Michea è anteriore assai di tempo a quello di cui abbiamo le profezie. Elia ed Eliseo si tenevano pec deserti coi loro discepoli, per questa Achab dice che solo questo Michea era rimaso nel paese. 22,11. Si fece dei corni di ferro e ci i veri profeti del Signore predicevano talora il futuro coi fatti, e ad imitazione di essi questo profeta del demonio, mettendosi in fronte che corni di ferro, volle annunziare che la possanza di Achab significato in quei corni avrebbe disfatta le armate dei Xoriani. 22,15. Va pure, va felicemente. Il profeta parlava ironicamente, deridendo i falsi profeti, e ben se ne accorse Achab, come apparisce da quello che segue. 22,19. Ho veduto il Signore. E tutta la milizia celeste, ici. Con questa visione Dio dipinse nella mente del profeta quello che doveva avvenire della spedizione di Achab, e come il demonio coi suoi falsi profeti lo avrebbe indotto a intraprenderla per suo danno. Dio non tiene consiglio, né ha bisogno di consiglieri in quello che egli vuol fare, ma si induce qui come un re assiso sul suo trono, cinto dalla sua corte, cioè dagli angeli suoi, il quale volendo punire Achab, determina di permettere che egli sia ingannato, affinché pel suo inganno perisca, come ci ben merita. Il nemico dell'uman genere si presenta al trono di Dio, e promette di ingannare quel re per mezzo dei falsi profeti, e Dio assicura che così avverrà, Achab crederà ai suoi profeti. Underà all'assedio di Ramoth, e perirà. Sopra questa bella descrizione deve notarsi, primo, che è cosa aliena da Dio l'ingannare, il sedurre. Onde non in Dio, né in veruno degli spiriti celesti uniti a lui si trova disposizione o attitudine per l'inganno, ma solo nello spirito maligno, di cui è propria la menrogna e l'inganno, secondo, l'inganno, di cui doveva servirsi quello spirito, era cognita a Dio, e da Dio era permesso e diretto alla giusta punizione di Achab e donde apparisce Eziandio, come lo stesso spirito nulla può intraprendere, né operare se non in quanto da Dio gli venga permesso. Vedi Augq 44. In Giud. Terzo, la volontà di Dio in cagione della rovina di Acab, volendo il Signore castigare finalmente quell'impio re, e per questo permesse, che Acciai consultasse i suoi maghi e ad essi prestasse fede, e perdesse miseramente la vita. 22,25 Te ne accorgerai in quel giorno, e ci scondo questa profezia: il falso profeta dopo la morte di Acab dovette essere cercato e messo a morte dal figliuolo di Acab in pena di avere indotto il padre a quella sciagurata impresa. 22,27 Alimentatelo con pane di tribolazione e C.S. Girolamo tradusse la stessa frase in tal guisa: dategli poco pane e poca acqua. 22,30 Ma il re di Israele cambiò di vestita appunto perché sapesse l'ordine dato dal re di Siria ai suoi capitani, v. 31, oppure perché non potesse togliersi dalla mente in predizione di Michea, e il timore di vederne l'avveramento lo inducesse a cercarsi più agevole lo scampo con la mutazione del vestito. 22,32 Diede uno strido. Egli intanto pericolo sclamò invocando il Signore, il quale gli diede aiuto, e feca che quelli si ritirarono da lui. 2. Paral. 18,31 22,35 Il re di Israele se ne stava sul suo cocchio e ci egli non abbandonò il suo esercito, ma stando in disparte sosteneva tuttavia con la sua presenza il coraggio dei suoi, i quali non sapevano come egli era ferito a morte. Sulla sera egli si morì, e sparsane la nuova, finì la battaglia e la guerra. 22,38 E i cani leccarono il suo sangue e ci. I cani andando a bere alla peschiera sorbivano con l'acqua il sangue di Acab, del qual sangue tutta la peschiera era tinta. 22,39 La casa di Avorio. Può essere che così si chiamasse, perché egli ne avesse fatto incrostar d'avorio le mura, o perché fosse ricca di ornati della stessa materia. 22,44 Non tolse via e ci egli tollerò i luoghi eccelsi, nei quali si adorava il vero Dio, distrusse però quelli che erano dedicati alle false divinità. 2 Paral. 17,6 19,3 22,48 Non era Eci. L'Idumea era tuttora soggetta a successori di Davide, ma sotto Ioram figliuolo di Giosafat gli Idumei si misero in libertà, e si crearono un re. 4. Regione 8. 22,49-50 Andarono in pezzi in Asiongaber, e ciò avvenne nella società di commercio fatta da Giosafat con Ochezia, della quale si parla. 2. Paral. 20,36-37 Dopo tale avvenimento Ochezia cercò di rinnovare la società a Imma. Giosafat avvertito dall'esperienza e da Dio, non volle più aver che fare con gli empi.